E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. A tempo di sport, con Carlo Genta. Tutto non in una notte, ma comunque in meno di 24 ore, perché ieri alle 14 a quest'ora c'era il vertice in corso a Milanello, nulla trapelava, poi l'annuncio Pirlo rimane e poi in serata arriva Huntelaar. Huntelaar è ufficiale, sta atterrando adesso 14.05, salvo che il volo sia in ritardo a Milano, è il nuovo attaccante del Milan, non so quanto e fino a che punto sia l'uomo che... voleva a tutti i costi Leonardo, però questa è la situazione del Milan. Intanto Aquilani è pure in volo verso l'Inghilterra, va a Liverpool, passa dal giallo-rosso al red. Insomma, un'altra onda importante per il mercato. 800 24 00 24 per intervenire e commentare. Intanto, visto che di questo parliamo, abbiamo chiamato il bravissimo Gianluca Di Marzio, esperto di Sky, di Speciale Calciomercato, che è la trasmissione cult dell'estate, come dicevamo l'altro giorno. Grazie Gianluca, ciao. Grazie a te Carlo, grazie a tutti, buongiorno. Allora, un tuo commento su questo arrivo di Huntelaar. La mia domanda è l'uomo che voleva Leonardo o si accontenta? No, Leonardo voleva Luis Fabiano, Questo credo che sia pacifico. Detto questo, il Milan ha deciso di investire comunque questi 15 milioni di euro, ha preferito farlo per un giocatore magari più giovane, visto che l'input di Berlusconi è stato quello di abbassare l'età media e se possibile anche il monte ingaggi del Milan del futuro, e quindi Huntelaar sicuramente può garantire sotto il profilo della carta d'identità più anni di rendimento, poi che sia più affidabile in zona gol rispetto a Luis Fabiano, questo lo diranno soltanto i risultati, anche se devo dire che il curriculum di Huntelaar sotto questo profilo, quindi quello realizzativo, è comunque di tutto rispetto, perché certo, lui ha sempre segnato dovunque ha giocato, ha debuttato in nazionale e ha fatto gol, in Olanda segnava ogni partita, quindi forse segna addirittura più di Luis Fabiano, sì. Però è un giocatore magari che come caratteristiche tecniche non si adatta meglio di Luis Fabiano, secondo me, a come vuole giocare il Milan. Luis Fabiano forse era più adatto come caratteristiche. Sì, su questo non c'è dubbio, infatti è l'uomo che Leonardo voleva, come tu dici. Mentre il passaggio di Aquilani a Liverpool, la Roma dovesse fare a meno anche alla svelta di un giocatore importante, si sapeva, bastava la Riconti, no? Sì. La scelta è caduta su Aquilani, si era parlato di De Rossi a Real Madrid. Però io dico, in fondo per la Roma, un grande dispiacere credo per i romanisti, un grande dolore perché è uno dei loro che parte, però per Aquilani, qualcosa di importante e interessante, l'esperienza sì, a Liverpool. Sì, ma anche per la società, Carlo, penso ossigeno puro per andare avanti in questo campionato, per cercare magari anche di prendere adesso un paio di giocatori, la prima punta, il portiere in alternativa a Doni che è ancora infortunato. Penso che fosse necessaria una cessione, forse meglio per la Roma che sia arrivata da Aquilani e non magari da Vucinic o da De Rossi, che sono giocatori ancora più importanti per Luciano Spalletti. Aquilani, insomma, l'anno scorso non ha praticamente mai giocato, è un giocatore chiaramente fortissimo, sarà uno dei pilastri, speriamo, della nostra nazionale in futuro, però forse come anello sacrificale forse meglio lui in questo momento che non Vucinic o De Rossi. Senti Gianluca, adesso la storia dell'estate quale diventa? L'altro giorno si parlava con Alessandro Bonan erano i giorni in cui si diceva Cassano all'Inter, poi ho l'impressione che questa non sia una pista realistica. Per no. Te adesso la storia dell'estate quale diventa? Ma secondo me la Fiorentina deve fare qualcosa, assolutamente. Sì. Penso che debba fare sia il terzino che il centrocampista, forse anche il difensore centrale, quindi penso che la storia sarà quella di Pantaleo Corvino, direttore sportivo sempre molto attivo e adesso stranamente silenzioso e misterioso, quindi pronto secondo me a sparare qualche colpo quando nessuno se lo aspetta. Sì. Vedi la storia di ieri di Gargano che è venuta fuori prepotentemente su questo sondaggio fatto con il centrocampista del Napoli che ha fatto infuriare De Laurentiis. Questa sarà sicuramente una telenovela che andrà avanti a lungo, come secondo me sarà una bella telenovela o una bella sceneggiata quella napoletana. Magari col mercato c'entra un po' meno, ma credo che i rapporti tra De Laurentiis, Marino e Donadoni siano arrivati ai minimi storici. Sì, e sì. Quindi questa è una storia che secondo me farà parlare a lungo soprattutto i tifosi del Napoli. tra cui ci sei tu, no? Perché l'altro giorno anche qui si parlava di te in tua assenza e si diceva che delle 17-18 squadre per cui fai il tipo, forse il Napoli è una delle prime. Sono napoletano di nasce, quindi non si può rinnegare le proprie origini. Credo che però sia un po' esagerato. Alla prima amichevole è andata non benissimo, sì, cominciare a prendersela contro tutto e tutti, compreso un allenatore che, voglio dire, deve ancora cominciare il suo lavoro, perché l'anno scorso è subentrato a una squadra che ormai non aveva più niente da dire. Adesso deve dimostrare, ma diamogli almeno qualche amichevole per far vedere il suo lavoro. Donadoni mi sembra che meriti un po' di credito e non subito le frecciate del suo presidente. Ma anche lì passi in meno di 24 ore dalla festa molto glamour sul peschereccio alle critiche dopo una partita storta, ma siamo insomma al 6 di agosto, non mi sembra proprio il caso. Il Napoli è, secondo me, è insieme al Genoa, a me piace molto, però il Napoli è forse quella che della nostra buona borghesia, quella che si è rinforzata meglio. Certo che ha un presidente che tende ad andare molto spesso sopra le righe, come è stato anche con Lavezzi. Ma soprattutto spero che non si stia zamparinizzando, sì, come vogliamo chiamarlo, perché se uno come De Laurentiis, che non sa niente di calcio, comincia ieri a dire io avrei fatto giocare Maggio prima di Grava perché Grava non sa crossare, oppure Dato non lo proverei a sinistra, cioè che faccia il presidente, certo, e faccia anche il produttore cinematografico, perché lo fa bene, ma l'allenatore lo lasci fare a chi ha un po' di esperienza in più rispetto a lui. Io do la possibilità anche agli ascoltatori di intervenire da subito con Gianluca Di Marzio. Massimo, provincia di Varese, buongiorno. Dica. Grazie per aver richiamato. Facciamo così, proviamo. Massimo, proviamo a richiamarla perché la linea è molto disturbata e facciamo fatica a sentire. Ci proviamo subito. 800240024, intanto continuo io. Gianluca, Lotito e Pozzo comunque rimangono gli ossi più duri del mercato. Al di là di De Laurentiis, chi deve trattare, chi vuole trattare con questi presidenti deve davvero segnarsi con la sinistra. È vero, mi dispiace un po' per D'Agostino, sinceramente, perché è il giocatore più illuso di questo calciomercato, lo voleva la Juve, lo voleva il Real Madrid, lo voleva il Milan, resterà all'Udinese, con tutto il rispetto per l'Udinese, ma credo che nella sua testa in questo momento ci siano altre maglie soltanto sfiorate e accarezzate e mai indossate, quindi mi dispiace un po' per D'Agostino che di questo calciomercato è forse la vittima, no? Perché lo volevano tutti e alla fine nessuno l'ha preso, e dispiace anche per giocatori come Ledesma, che nonostante abbiano ancora 2 anni di contratto, perché poi secondo me si è distinto poco tra Ledesma, Pandev e De Silvestri, perché Pandev e De Silvestri hanno un solo anno di contratto, Ledesma ne ha 2. È giusto secondo voi non convocare per una Supercoppa, una finale così importante, un giocatore che ha ancora 2 anni di contratto e non vuole rinnovare? Ma perché Ledesma deve rinnovare adesso con 2 anni ancora di contratto? Cioè, nei suoi diritti rispettare il contratto e non voler rinnovare, ma nei suoi diritti essere convocato dall'allenatore. D'accordissimo con te. Vediamo se riusciamo a parlare con Massimo. Buongiorno, mi sente? Adesso sì. Niente, io in breve volevo solo spezzare una lancia in favore del Milan. Sì. Faccio questo ragionamento. Quando ha avuto un allenatore, il Milan gli ha sempre messo a disposizione una squadra in grado di vincere la Coppa dei Campioni, tranne a Zaccheroni, che in quegli anni però mi sembra che tra Lazio e Parma il mercato era più drogato che ai tempi di oggi. Quindi penso che bisogna avere un po' di pazienza e la squadra verrà fatta. Verrà fatta con altri innesti, lei dice? Sì, magari non quest'anno. Perché, in prospettiva. La crisi economica è quella che è, però penso che nel medio periodo si possa stare tranquilli sul futuro del Milan. Ma lo vedremo. Intanto, secondo me, ciò che è importante, lo dico ormai da troppo tempo, è essere chiari con i programmi. Mi sembra che non ci sia chiarezza dei programmi, e se c'è chiarezza nei programmi, certo non c'è chiarezza nella comunicazione dei medesimi. Questa è la mia idea. Gianluca, come vedi il futuro del Milan? Futuro magari non immediato. Ma c'è finalmente un tifoso che la pensa diversamente a tutti gli altri. Esatto. Che penso che la maggior parte volesse almeno un paio di investimenti importanti dopo la cessione di Kakà. Invece c'erano questi 70 milioni di euro di buco, evidentemente di bilancio, che andavano coperti, e c'erano i 15 milioni della cessione di Gourcuff che potevano essere investiti e sono stati investiti per Untra. Ma credo che questa squadra abbia bisogno di almeno un altro paio di giocatori, soprattutto sulle fasce laterali. Leonardo l'aveva chiesto fin dall'inizio. Non ci sono purtroppo giovani che sono arrivati sugli esterni che possono garantire un ricambio ai vari Jankulowski, Zambrotta, Odd e Favalli. C'era bisogno sicuramente di investire lì. Vedremo se lo farà l'anno prossimo. Quest'anno credo che il Milan, così com'è, non sia sinceramente competitivo come Inter e Juventus per arrivare allo scudetto. Credo che dovrà lottare per arrivare nelle prime, tra il terzo e il quarto posto, e sarà una bella lotta con tante altre squadre come Fiorentina, Roma, Palermo, Napoli, Genoa. D'accordissimo, forse solo nelle parole, ma non so se nei pensieri del suo proprietario. Competitivo come l'Inter, l'aveva detto Berlusconi un po' a sproposito, secondo me. Tornando ad Agostino, Gianluca, c'è chi pensa, chi dice, ma magari in tutta questa grande delusione potrebbe spuntare l'Inter. Io non credo che abbia le caratteristiche di quel trequartista che vuole Mourinho. No, anche perché adesso si è specializzato a giocare un po' più indietro e lo fa anche molto bene. In nazionale è stato convocato proprio per giocare come centrocampista centrale. Non credo che abbia anche lui la voglia di andare a giocare di nuovo da più avanti, anche se lo dovesse chiamare all'Inter. E poi l'Inter credo che per questo giocatore, per il trequartista, non voglia investire, cioè voglia spendere al massimo 5-6 milioni di euro, 7, oppure fare un prestito con diritto di riscatto. Ecco perché Deco, Rakitic, Aymar sono sempre i nomi più caldi, perché sono quelli più appetibili. Cassano, come ho detto, D'Agostino, giocatori che costano dai 18 milioni di euro in su, credo che non facciano parte in questo momento delle strategie economiche dell'Inter. Prima di salutare Gianluca Di Marzio, un altro ascoltatore, fedele da Verona, buongiorno. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie. Io le volevo dire, se non trova un po' esagerato quel vertice, sono interista, quel vertice fatto con Berlusconi quando già si sapeva che Huntelaar lo voleva solo Stoccarda, e quello te lo regalavano anche, probabilmente se no andava nella Beata Grasso a giocare. E poi tutta questa storia anche di Pirlo, che Pirlo non penso che sia proprio questo frutto proibito del Chelsea, che probabilmente non serve se non a Ancelotti. Un'ultima cosa, ieri parlavate di Rubinho, Amelia lo scambio, ma sì, se ben ricordo, Amelia, il portiere del 5-0 presi col Catania, che se in porta ci metteva una sedia, probabilmente Zinga, sì, un portiere del genere non lo vuol vedere neanche in copertina. La saluto. La saluto anch'io, Fedele. Di Milan parliamo dopo. Invece questa storia di Amelia della sedia non è male. Secondo me, Gianluca, a me Amelia è un portiere che piace, al di là di quel 5-0 di una partita storta. È un portiere che ritengo comunque, al di là del suo curriculum in nazionale, sebbene da riserva, è un portiere che ritengo affidabile, è un portiere che ritengo costante. Sì, secondo me sì, e forse al Genoa potrà avere quegli stimoli che secondo me a Palermo un pochino aveva perso in questi ultimi mesi, e forse è stata una delle operazioni più intelligenti di questo calciomercato, perché Rubinho era in difficoltà a Genoa, aveva soltanto un anno di contratto, sarebbe rimasto a scadenza, rischiava di avere la testa già da un'altra parte. Amelia voleva andare via da Palermo, è stato fatto l'incastro giusto, quindi mai come questa volta la sapienza di chi ha pensato questa idea, credo sia Sabatini, il direttore sportivo del Palermo, ha portato un'operazione davvero molto intelligente. Spesso nel calciomercato assistiamo ad operazioni magari fatte per l'istinto, soltanto per accontentare i presidenti che hanno voglia di fare degli sfizi, e magari gli allenatori si trovano dei giocatori che non volevano. Invece credo in questo caso sia stata fatta veramente un'operazione chirurgica. Gianluca, preview, stasera di che parli? Stasera su Sky Sport 24 si parlerà di Huntelaar sicuramente, perché arriva, di Aquilani, e spero anche un po' di questa vicenda del Napoli, perché credo che sarà la vicenda più interessante di questi prossimi giorni. Dunque, si diceva prima guerra fredda a Napoli, sentiamo che cosa ha detto il presidente De Laurentiis dopo la partita non granché giocata dai suoi ieri sera con l'Espagnol. Noi con certe persone che continuano a fare gli stessi errori, che continuano a essere secondo me poco ordinate e poco costruttive in campo, per cui gli manca anche poi la determinazione, come se non gliene fregasse nulla, noi di queste persone non abbiamo bisogno, il Napoli non ha bisogno, quindi attenzione per Paolo Marino, secondo me devi far pulizia. Però questo era De Laurentiis, ci è andato giù piano come al solito. Vincenzo, provincia di Bologna, buongiorno. Allora, buongiorno. Dica. Allora, io sono tifosissimo del Palermo Io credo che il Palermo quest'anno ha fatto una buona campagna acquisti, con Pastore, sì, quell'altro che ha preso, l'altro argentino che ha preso, questi due che ha preso pure oggi. L'acquisto più bello che ha fatto è che ha levato Amelia, che faceva delle papere, ha fatto delle papere l'anno scorso. Ecco. Dopo lo 5-0 Palermo-Catania, ma quando siamo andati a Catania, le papere che ha fatto, i due gol che ha preso, sì, parecchie ne ha fatte. Sì, c'è da dire che il Palermo l'anno scorso, soprattutto in certi momenti della stagione, non era esattamente il massimo dei sogni per un portiere, perché era una squadra che spesso giocava, lasciava giocare, anche divertente da vedere se si vuole, però non era esattamente ermetico il Palermo dell'anno passato. Io continuo a pensare che Amelia, insomma, un portiere secondo me va valutato comunque nel corso di un certo numero di stagioni. Io credo che prima al Livorno, poi meritandosi la convocazione nazionale, penso che Amelia resti comunque un bravo portiere. Non vedo grandi differenze rispetto a Rubinho, che pure è un eccellente portiere, magari ha qualche numero in più in mezzo ai pali, magari arriva dove Amelia sul singolo tiro, sul singolo pallone non riesce ad arrivare, però non trovo grandi differenze tra i due portieri. Probabilmente ha visto giusto Gianluca Di Marzio, come diceva, operazione intelligente, magari Amelia a Palermo aveva esaurito la sua missione, meglio cambiare portieri di pari livello, tanto che questo scambio è stato intelligentemente perfezionato. Saluto e ringrazio il mio amico Andrea Schianchi della Gazzetta dello Sport. Ciao Andrea. Ciao Carlo, saluto a tutti gli ascoltatori. Tutte estate che parliamo di Milan, per ragioni di coerenza e di continuità ti abbiamo disturbato anche oggi, che magari sei in vacanza. No, non è mai un disturbo. Grazie. Allora, Berlusconi ieri esce e dice: la prima cosa che Leonardo ci ha chiesto, trattenere Pirlo. Benissimo. La società metterà a disposizione quanto necessario per comprare un altro attaccante. Allora, Pirlo resta, arriva Huntelaar. Io però ho un dubbio, cioè che sia veramente quello che Leonardo voleva. Mi fido, per carità, però non sono così convinto che è ciò che Leonardo voleva. Il fatto che Pirlo resti, grande giocatore, però insomma credo che nei disegni di Leonardo se ne potesse anche fare a meno, ovviamente in cambio di una contropartita differente. Quanto a Huntelaar, mille volte si è detto, l'abbiamo fatto anche poco fa, che preferiva il suo connazionale, Luis Fabiano. Sono assolutamente d'accordo su tutto quello che hai detto. Io non credo che... Leonardo si è reso conto che alla fine la campagna acquisti che lui avrebbe desiderato per costruire la squadra dei suoi sogni, diciamo così, non era possibile. A quel punto ha detto: vabbè, allora si continua a giocare come si è sempre giocato, e per giocare come si è sempre giocato mi serve un giocatore di qualità come Pirlo in mezzo al campo. Però non era sicuramente quello che lui desiderava, tant'è vero che dobbiamo dimenticare che la prima amichevole di Varese, alla quale tra l'altro assistette Berlusconi, fu giocata con due mediani davanti alla difesa, con Seedorf in posizione più avanzata, quindi il regista in posizione più avanzata, a due ali larghe che in quel caso erano Boriello e Ronaldinho, perché Pato non c'era ancora, Inzaghi in mezzo. Che lui volesse giocare con i 4-3-3 era ultra noto. Dopodiché è chiaro che le vicende di calciomercato hanno fatto sì che lo stesso Leonardo abbia dovuto ricredersi a livello tattico, questo è fuori di dubbio. Io credo che al di là della conferma di Pirlo e dell'acquisto di Huntelaar, i tifosi del Milan debbano essere, se non preoccupati, però perlomeno con le antenne dritte per quanto riguarda il progetto, che io continuo a non vedere. Cioè io sostengo che uno possa anche vendere Kakà, possa anche vendere eventualmente Pato, possa vendere Pirlo, chi vuole lui, sì, esatto, sì, chi desidera, purché però ci sia un progetto chiaro. E allora si dice: va bene, ok, vogliamo fare come l'Arsenal, puntare sui giovani, eccetera. Cari tifosi, sappiate che ci vogliono almeno 2-3 anni di tempo per poterli crescere, e questo è un progetto chiaro. Andare avanti, cioè, a me francamente, con tutto il rispetto, però fanno ridere quelli che pensano che Huntelaar sia a livello numerico la sostituzione di Kakà. Ma non scherziamo, insomma. No, ma è anche un altro giocatore che discorso è imparagonabile. Poi è anche un giocatore che obiettivamente magari farà anche i gol, perché io non è che sto lì a discutere se faccia i gol o meno, ma è un giocatore che ha bisogno del gioco della squadra per è un attaccante. No, ma Andrea, ma è questo, è un attaccante. Guardi i numeri, fanno paura, perché sì, lei ha giocato 92 partite, 76 gol. Nelle Reimben 40. Bisogna vedere dove ha giocato, e soprattutto è un giocatore che sa fare il gol, però il gol glielo devi creare. Non è quello che te lo inventa da solo, non è quello che ha il colpo, eccetera, eccetera. Negli ultimi anni sarà un Milan diverso, però negli ultimi anni fare la prima punta del Milan era un mestieraccio. Prova a chiedere a Gilardino. infatti sono assolutamente d'accordo, cioè il discorso è che Huntelaar è un giocatore che ha bisogno del gioco della squadra, mentre al momento il gioco della squadra non c'è, e allora probabilmente era più utile, o sarebbe stato più utile, un giocatore che aiutava la squadra a costruire gioco e metteva in condizione magari Pato, magari Ronaldinho, magari lo stesso Borriello di rendere al massimo. E da questo punto di vista, per quanto io abbia detto proprio a questi microfoni che secondo me Luis Fabiano è più o meno uno stopper, sì. E continuo a pensare, continuo a pensare che Fabiano sia più o meno uno stopper, però dal punto di vista della capacità di sacrificio della squadra e della capacità di resa per il gioco della squadra, Luis Fabiano è superiore a Huntelaar. Poi magari Huntelaar fa 20 gol e stiamo qui a incensare Huntelaar. Io per come è messo il Milan adesso non credo che Huntelaar sia la soluzione ideale. Sentiamo anche un ascoltatore. Poi parliamoci chiaro, Huntelaar è uno che c'ha bisogno di cross, chi è che li fa i cross? Bravo, no, certo, è quello che stavamo dicendo prima. Huntelaar è un grande finalizzatore, ma è un uomo da dare, è stato paragonato a Inzaghi, ha caratteristiche completamente diverse, però è uno da ultimo colpo e lì è bravissimo. Nel Milan degli ultimi anni, insomma, fare un gol per un centravanti era una storia mica da poco. Sentiamo un ascoltatore, prima di salutare Andrea Schianchi, Antonio da Milano, poi abbiamo anche Simone da Firenze, Pasquale da Modena, ma ancora tanto tempo, 800 24 00 24, vi ricordo, numero verde, Antonio. Sì, buongiorno, sono Antonio da Milano, ma sono napoletano, tifoso del Napoli. Io volevo intervenire sul Milan, sì. Però voglio dire che sono d'accordo con il presidente De Laurentiis, perché... io sono tifosissimo del Napoli, anche se non capisce nulla di calcio, quando ci azzecca tanto vale prendere in considerazione, perché secondo me nell'affermare quello che ha affermato, sì. E poi quello che ha detto anche Donatoni, che bisogna sfoltire la rosa, bisogna seguire l'indicazione. C'è modo e modo comunque, questo sicuramente, però dico, c'è quello che lui dice è giusto, ecco, secondo me, poi dopo c'è modo e modo, ma è giusto. Io sono tifoso del Napoli. Sul Milan? Sul Milan volevo dire una cosa in controtendenza. Io credo che da sportivo, appassionato di calcio, io non la vedo una squadra, cioè, come la si sta dipingendo. Cioè, per me Pirlo, Seedorf, Huntelaar sono giocatori molto forti. Cioè, per me Seedorf è uno dei giocatori più forti del mondo. Cioè, è proprio un centrocampista, ma lo stesso Pirlo, ma io ho visto Huntelaar come gioca. Insomma, secondo me è una squadra che si sta un attimino... cercando di non darle il giusto peso. Non lotterà per lo scudetto, ma potrebbe essere una sorpresa che magari potrà smentire la gran parte delle persone che oggettivamente non la stanno pensando. Non so, Antonio, il Milan è più o meno quello degli altri anni, insomma, quello che non si capisce è dove voglia andare, perché ieri Arrigo Sacchi scriveva giustamente che non potrà cambiare questo Milan fino a quando il costo del lavoro sarà quello attuale, cioè un sacco di soldi, seconda squadra che spende più in stipendi dopo l'Inter. Sono d'accordo con Arrigo Sacchi, io credo che questo Milan possa essere quello da partita singola, possa essere quello che magari vince il derby di fine agosto con l'Inter. Non credo però si possa dipingere questo Milan come una squadra da scudetto, perché non lo è, come una squadra da Champions League perché non lo è, però c'è qualcosa che non va, perché è una squadra che costa moltissimo e se non corre per lo scudetto per la Champions League a che cosa serve? Andrea? Sono d'accordissimo, cioè ripeto, allora, sempre a questi microfoni l'avevo detto un po' di tempo fa, il Milan era più debole dell'Inter e nettamente, sia a livello di rosa sia a livello poi dei risultati finali, perché è arrivato con una decina di punti di svantaggio in campionato, con Maldini, Kakà e Ancelotti in panchina, che aveva sicuramente una certa esperienza, probabilmente superiore a quella che può avere Leonardo, che peraltro secondo me è un ottimo allenatore, almeno per quello che si è visto adesso. Dopodiché non c'è più Maldini, non c'è più Ancelotti, non c'è più Kakà. Gli altri giocatori sono dei punti interrogativi, perché Gattuso viene da un grave infortunio, Borriello da un anno che non gioca, Nesta riprende dopo 13 mesi di infermeria. Ditemi voi per qual motivo io devo considerare l'Inter e devo considerare il Milan una squadra di alto livello. Poi dopo, per l'amor di Dio, si può essere ottimisti, fiduciosi, possiamo essere smentiti tranquillamente. tranquillamente dai risultati, ma quello che manca è il progetto, cioè non c'è un'idea. Non si può costruire una squadra con una punta che ha bisogno di rifornimenti aerei continui come Huntelaar se non si cambiano i terzini, perché i terzini sono ancora Zambrotta e Jankulowski. Allora la palla o se la porta lui da casa o non gli arriva mai. Ma non è che lo dico, cioè dico questo per un minimo di esperienze, perché un pochino a calcio ho giocato anch'io. Sì, non è per considerazioni tecniche, non per avercela con chissà chi, insomma, sono semplicemente considerazioni tecniche, peraltro che non fanno una piega. Andrea, ti ringrazio, buon lavoro. Grazie. Momento degli ascoltatori, dunque 800 24 0024, pure messaggi 349 238 6666. Non sono così d'accordo con Lorenzo da Milano, che scrive anche a Inzaghi bisogna costruirgli i gol. Inzaghi invece è uno che li trova per fiutoli, li trova nella spazzatura, li trova sul filo dei centimetri, li trova per logoramento degli avversari. Inzaghi è una macchina da gol molto particolare. Ricorderete la polemica invernale a distanza tra Ancelotti e Girardino, insomma. Inzaghi e Girardino, a Girardino bisogna costruire i gol, quello sì. Inzaghi li trova da solo, come non si è mai capito. Stefano da Piacenza, come mai si sottovaluta così tanto Borriello? Beh, Borriello, grande stagione a Genova, dove, l'ho detto mille volte, Gasperini è come Harry Potter, ha la bacchetta magica in mano, poi però deve ancora convincere dal punto di vista della continuità. L'ultima stagione l'ha passata insieme a Nesta a giocare a Briscoli in infermeria, insomma, mi pare. Simone, Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno. Io oserei dire che Milan e Fiorentina, non mi vogliono i tifosi del Milan, ma si somigliano molto. Una volta sarebbe stata, come dire, una benedizione per noi, no? Che la nostra squadra fosse così, avesse somigliato il Milan, ma ora non mi sembra, come dire, una bella cosa. Ma si somigliano da che punto di vista? Si somigliano nel senso che si sono indebolite tutte e due. Sì. Tra l'altro io, se mi posso permettere, sarei anche un suo collega, perché anni fa facevo il commentatore presso la TV toscana. Sì, no? sì, piacere. E io mi permetto anche di dire che a Firenze il signor intoccabile Prandelli, così si riempie sempre la bocca con il progetto, no? L'avrete sentito anche voi, sì. Il progetto, cioè, che poi alla fine si riassume in due punti, cioè rafforzamento graduale della squadra e evitare di rafforzare le avversarie, sì. Ecco, le dirette avversarie italiane. Ora, il progetto in questo momento non esiste più, semplicemente perché... Perché sia un po', lei dice, sia un po' arenato sulla cessione comunque di Felipe Melo, che ora a Firenze molti vedono come il fumo negli occhi, eccetera. Io però non voglio dimenticare che Felipe Melo è stato comunque un giocatore importante nella Fiorentina dell'anno passato, perché spesso si caricava il centrocampo sulle spalle e lo portava avanti. Adesso molto dipende dalla esplosione di Kuzmanovic, dal rebus Montolivo, che è sempre giocatore piuttosto ondivago. È vero che è arrivato Marchionni, però senz'altro la Fiorentina, se si parla di progetto che negli anni scorsi è stato gradualmente portato avanti anche con ottime idee, perché è una squadra comunque molto giovane, questo non bisogna dimenticarlo, ebbene in questa crescita, in questo sviluppo graduale, Simone ha ragione, si è un po' arenato forse su esigenze di bilancio, ma non credo che comunque la Fiorentina sia completa così. Sono certo che la Fiorentina non sarà completa così. Quando sarà completa torneremo a parlare delle linee di quel progetto, se è vero che continua a svilupparsi o se invece è vero che ha avuto un arretramento, diciamo così. Tanto io credo che Corvino sia al lavoro e credo sia un genio del calciomercato. Poi vediamo, vediamo anche quali sono i soldi a disposizione, perché questo fa la differenza. Pasquale, Modena, buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo chiederle una sua opinione in merito a un'intervista di Mourinho che ho sentito. Io premetto che sono un tifoso interista. Ho sentito Mourinho riguardo alla Champions, dando come probabilità all'Inter una vittoria al 10-15%. Quindi sì. Ha praticamente ripartito... la vittoria della Champions in base alle altre squadre che competono e che secondo lui sì. Possono ambire a questo trofeo. però volevo chiederle, non le sembra un po' strano da Mourinho e confrontandolo con come si è presentato Ancelotti al Chelsea, dove la prima cosa che ha imparato in inglese è stata quella di dire ai tifosi del Chelsea: io sono venuto qui per vincere la Champions. Ma cioè, anche Mourinho l'aveva detto in altre occasioni. No, ma Mourinho ha fatto un discorso molto razionale, molto logico. Dice 7-8 squadre sono attrezzate per vincere la Champions League, quest'anno ci siamo anche noi, quindi semplicemente 100 diviso quel che è, e viene diviso 7, diviso 8 e viene quel risultato, diviso 10 e viene il 10%, insomma ha fatto un discorso di questo tipo, secondo me per nulla sbagliato, perché la Champions League è qualcosa di terribilmente aleatorio. Cioè, io sono sempre stato, a me ha sempre fatto ridere quelli che dicevano: l'obiettivo nostro è vincere la Champions League. Poi sbagli una partita, oppure il secondo tempo della finale, e si è già vista questa, e la Champions League va in mano ad altri. Quindi, secondo me, una competizione come la Champions League può essere legittimamente inserita nei desideri, non può essere inserita, secondo me, ragionevolmente negli obiettivi programmabili, a differenza di un campionato che è una maratona, e quindi si basa su altre logiche. Quindi secondo me Mourinho ha ragione. Poi è chiaro che tutti i brevi, se arriva a Barcellona, sono qui per vincere Champions League, vediamo, perché sbagli un tempo sei a casa. Champions League è così, non trova? Più che altro non vorrei che si leggesse da questo che ci sia una certa discordanza tra un mercato fatto dalla dirigenza Inter e un mercato parallelo che Mourinho forse credeva svolgere in un altro modo. No, anzi, Mourinho ha detto: l'anno scorso avevamo zero possibilità di vincere la Champions League, no? Al di là di tutto quello che si è detto e fatto, avevamo zero possibilità perché a quel livello non eravamo completi e competitivi. Quest'anno lo siamo, e quindi siamo lì con quelle che vogliono vincere, che siano Real Madrid, Manchester United, Barcellona, inizio a stare qui a fare l'elenco, Chelsea, eccetera eccetera. Le possibilità, insomma, 8 competitors credibili, poi magari salta fuori la sorpresa del caso, 8 competitors credibili, noi siamo lì con gli altri. Mi sembra un discorso molto razionale quello di Mourinho, che io condivido in linea di massima. Grazie Pasquale. Massimo, provincia di Grosseto, poi andiamo a Pavia da Giuseppe. Buongiorno Massimo. Ciao Carlo, grazie, ciao. Complimenti a te e ai tuoi collaboratori. Grazie. Io sono un tifoso juventino e niente, volevo condividere con te un po' la campagna acquisti della Juventus, che secondo me è stata comunque seria, diretti sull'obiettivo e soddisfacente. Anche sulla scelta dell'allenatore, obiettivi chiari, io sono fiducioso. Un'altra cosa mi fanno morire, vorrei sapere un attimino cosa ne pensi sia De Laurentiis che Lotito sulle scelte in merito all'Avezzi, ai vari dissidenti per l'ingaggio e così. Ma vale il discorso, Massimo, vale il discorso fatto prima, cioè su Ledesma, giocatore che ha ancora diversi anni di contratto, perché deve mettersi lì a firmarne un altro, ad allungarlo, eccetera eccetera, quando ci sono tutti i tempi e i modi per farlo. Insomma, è una tendenza, non a caso forse quello che ha inaugurato questo trend, almeno a mia memoria, poi magari ci sono mille altri esempi precedenti, però il più clamoroso che mi ricordo fu il caso di Aquinta all'Udinese qualche anno fa, quando era partito con il botto in campionato e poi finì in tribuna per volere di Pozzo, e disse: non firma il contratto e io lo spedisco in tribuna, e così fece. Mi sembra un'esibizione di muscoli un po' eccessiva. E quanto a Lavezzi, vale il discorso, vale grosso modo questo discorso, cioè è una questione che è stata trattata non con tanto tatto da De Laurentiis, che è abituato ad affrontare di petto anche pubblicamente queste situazioni. Secondo me sono situazioni che vanno gestite con decisione, ma senza fare delle piazzate ogni volta. Anche questa di ieri sera mi è sembrata un pelino fuori luogo, visto anche il momento di la stagione, che è quella delle amichevoli. Un minimo di pazienza io credo ci debba volere, ecco, senza ricorrere a grossi, grossi show televisivi. Questo è quello che penso. Lotito, però l'ho detto, Lotito e Pozzo, tanto per cominciare, sono gli ossi più duri del mercato. Pozzo, si diceva ieri, è un grande presidente, non ha esigenze urgenti di immissione di denaro fresco, perché è uno che insomma di soldi ne ha fatti tantissimi con l'Udinese negli ultimi anni, monetizzando quella che secondo me è una strategia vincente, cioè che si chiama, riassumibile in una parola, competenza e lavoro attento sui mercati mondiali e sul calcio giovanile. Quindi lui dice: il prezzo che fisso per un giocatore è 20, non mi muovo di lì, cioè, possiamo trattare sui centesimi, ma il prezzo è 20 ed è 20 e quindi rimane 20, se volete quel giocatore mi date questi soldi, se no il giocatore serenamente rimane, gli piaccia oppure no. Questa è la strategia di Pozzo, e lo Tito grosso modo è lo stesso, fissa un prezzo, di lì non si muove, se si vuole il giocatore si paga. Giuseppe Pavia, buongiorno. Buongiorno signor Carlo, guardi, proprio prendendo spunto da queste ultime considerazioni che stava facendo in merito a questi presidenti, diciamo, irremovibili sui giocatori, le volevo chiedere se De Silvestri della Lazio è effettivamente indirizzato alla Fiorentina oppure ci sia ancora qualche spiraglio per un eventuale passaggio al Milan, ammesso non concesso che il Milan comunque dopo l'acquisto di Unterar decida di intervenire ancora sul mercato. E poi una piccola considerazione: forse Untelar, effettivamente lei prima faceva riferimento alle sue caratteristiche, non si può paragonare ad Inzaghi perché comunque ha anche caratteristiche non solo tecniche diverse, però effettivamente, se vogliamo dire, come centravanti da inserire, è un centravanti. È un centravanti a tutti gli effetti. E io le dico, sa, lì c'è l'unica speranza, tenuto conto che non è sostituto di Kakà e la società mi pare che chiaramente, ha ragione o torto, lo dirà questo campionato, considera Ronaldinho il sostituto di Kakà, e l'unica speranza è che Ronaldinho abbia desiderio di giocare questo mondiale e non tanto per il Milan ma per riconquistare una maglia, sì, e quella è l'unica, guardi, glielo dico da ma è una scelta forzata, è una scelta forzata, o sì. Ronaldinho decide di fare il giocatore di calcio e di tornare ad essere magari anche a il, non dico la metà, ma 70% di quello che era, allora andrà bene, oppure Ronaldinho continuerà a fare dell'altro e allora sarà semplicemente una scelta perdente e costosissima. Quindi gioco forza si deve dire: Ronaldinho è qui, costa un mucchio di soldi, non lo vuole nessuno in questo momento, ma speriamo che giochi bene, perché se gioca male è un disastro. È una scelta obbligata, non è una scelta dettata da altre... da altre circostanze, insomma. Quanto a Untera, secondo me, in valore assoluto è il migliore di quelli che dei nomi che circolavano per il Milan, il miglior attaccante disponibile, che è arrivato a prezzo di budget, perché non è che siano stati fatti degli sforzi supplementari rispetto a quelle che erano dichiaratamente le possibilità del Milan, 15 milioni per questo giocatore. Poi da lì a dire che è un giocatore adatto alle caratteristiche del Milan, non credo, perché è un giocatore che appunto è un centravanti vero, e come tutti i centravanti veri ha bisogno, come l'aria che respira, di palloni che gli giocabili, che gli arrivano dagli esterni, che gli arrivano dalle fasce e quant'altro. Quindi è un giocatore di questo tipo. Poi, se ripeto, Ronaldinho è una scommessa obbligatoria per il Milan. Questo è il mio pensiero sul Milan. Non si tratta di essere prevenuti o di essere critici, è semplicemente il mio pensiero. Se volete vi dico cose che non penso, ma non è nel mio costume. Ecco, Claudio da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per avermi dato la linea e l'opportunità. Niente, io sono un tifoso interista da sempre, se potevo dire in sintesi. Sì. Per quanto riguarda il mercato dell'Inter, sotto l'aspetto del risanamento dei conti, sicuramente l'operazione magistrale con lo scambio Eto'o-Ibrahimovic, però per quanto riguarda un discorso squisitamente tecnico, non lo so se poi l'Inter abbia fatto dei grandi affari andandosi a rinforzare, lo andremo a vedere, di sicuro sono stati dei giocatori piuttosto forti. Soprattutto però io avrei un rimpianto e mi fa specie che non ne hanno mai parlato. Sì. C'era un giocatore che Moratti pareva avesse già opzionato e pareva che quest'anno arrivasse, che probabilmente poteva fare sì la differenza, e non è incedibile, sto parlando di Agüero. Mi fa strano vedere come per questo calciomercato non se ne sia mai parlato, addirittura adesso lo sta trattando il Chelsea, e sì, per cui a conferma che è un giocatore che potrebbe venire via. Cosa ne pensa per tanti di soldi, giocatore, se ci sono ancora speranze eventualmente finché possa venire o qualcosa, insomma. Claudio, grazie. No, io credo che quest'anno, insomma, che Agüero non arriverà all'Inter, credo che l'Inter completerà il mosaico con un trequartista, poi Gianluca Di Marzio prima ci dice un trequartista non a prezzi esorbitanti. Io credo invece che, insomma, lo scambio di Ibrahimovic, che l'affare Ibrahimovic e Eto'o sia stato un grandissimo colpo, dettato in parte dalla necessità del Barcellona di rispondere in qualche modo anche mediaticamente ai colpi del Real Madrid, dalla volontà, per me, a tutt'oggi misteriosa del Barcellona di privarsi di Eto'o. Già l'anno scorso ci aveva provato, quest'anno, subito il giorno dopo la finale di Champions League, come si è già detto, ha provato a sondare il mercato in varie direzioni per spingere Eto'o a cambiare maglia. I motivi, in tutta franchezza, non li so, anche perché se facciamo un discorso tecnico, rimane un mistero totale, profondo e assoluto. Se ne facciamo un discorso, non so, di rapporti, di qualunque altro tipo, allora non conosco quali siano state queste logiche. Eto'o, secondo me, è un super giocatore, ha caratteristiche diverse da Ibrahimovic. Il Barcellona acquista un attaccante di grande peso, cosa che non aveva, acquista un giocatore in grado di risolvere anche le serate storte, le serate difficili, le partite complicate, perché Ibrahimovic è quello che ti può cambiare con una giocata l'esito della partita, ed è un giocatore che di quel tipo che il Barcellona non aveva. Quindi completa, se vogliamo, dal punto di vista tattico e fisico il mosaico. L'Inter sarà un'altra squadra, dovrà giocare in un altro modo, e vedremo, l'ho detto molte volte, credo la prima Inter di Mourinho. Poi la valuteremo, poi vedremo se è più forte o meno forte, però vedremo la prima Inter di Mourinho. Michele da Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo parlare di pallacanestro. Anch'io. Se il Milan forse farà brutte figure, io penso che possiamo dire tranquillamente che l'Italia di basket sono almeno 2 anni che ormai le fa. Sì. E credo ormai sia arrivato il tempo, mi dispiace, ma Recalcati deve lasciare un po' spazio, perché anche ieri sera si è confermato che purtroppo gioco non ce n'è, segniamo con le forzature di Bellinelli e soprattutto piango quando vedo Barniano utilizzato da 5 sempre, costantemente. Cioè, se abbiamo un giocatore che in 32 minuti di NBA e gioca 5 sotto canestro, non vedo perché dobbiamo utilizzarlo tutta la partita. Poi ieri sera Cousin stava facendo i miracoli, perché non provarlo un po' da 4, Barniani? Proviamolo da 4, è l'unica cosa che sa far bene, facciamola fare. Michele, è possibile vederlo sacrificato in questo modo? No, sono d'accordo. Oggi parla la delusione, no? Parla la delusione per quell'88 a 80 a 77 dopo un supplementare di ieri sera che ci allontana in maniera forse decisiva dall'europeo. Adesso sappiamo, il girone è appena iniziato, c'è adesso la partita con la Finlandia, poi il ritorno in Francia, poi la partita interna con la Finlandia, quindi altre 3 gare. Diciamo che abbiamo cominciato nel modo peggiore. Oggi la parola d'ordine è: in fondo con la Francia sarà una doppia sfida, quindi è soltanto il primo tempo, scarto canestri non è impossibile, è chiaro, bisogna vincere a Pau, però è ancora in ballo. Gli interrogativi invece realistici intorno alla partita di ieri sera sono proprio quelli da lei sollevati. E allora facciamo così, li approfondiamo con un grande allenatore come Attilio Caia. Ciao Attilio. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Tu l'hai sentito, no? È la voce della delusione che parla oggi per Michele da Treviso come per molti altri. Però gli appunti sono precisi, insomma. Beh, in effetti c'è rammarico perché alla luce di come è andata la partita ci bastava poco per fare un risultato positivo, magari anche con un certo disavanzo, per poter eventualmente giocarsi in molte chance di qualificazione al ritorno. La Francia si è dimostrata una squadra dall'atletismo notevole, una squadra con giocatori di qualità atletica, ma con una gestione tattica un po' così. Questo grazie a noi, all'assenza che loro avevano di Tony Parker, e con un discorso di qualità individuale, parlo di quelli che si chiamano i fondamentali, un po' rivedibili, tant'è che anche loro da fuori, a parte Batum che ha fatto qualche buona situazione sia di uno contro uno che di tiro a 3 punti, gli altri sono stati un po' lacunosi. Però purtroppo noi non abbiamo avuto quella carica, quella determinazione, quel sangue agli occhi, quella intensità che una partita in casa con un pubblico così, in un palazzetto anche piccolo ma molto accogliente, poteva dare una spinta in più, si poteva creare una bella atmosfera per fare una partita d'assalto, una partita di grande intensità e mettere in difficoltà la Francia, che sotto l'aspetto, come dicevo prima, dei play guardi avrebbe mostrato qualche lacuna. Sì, diverse comunque gli argomenti di discussione intorno alla partita di ieri sera dell'Italia. Poeta doveva essere il playmaker designato da Recalcati, come aveva fatto fino a tutta la preparazione fin qui. Ha giocato all'inizio, poi non è più entrato. È vero che Vitale ha giocato molto bene, però si cambia assetto un po' a seconda dell'andamento della partita. Su Bargnani le considerazioni sono fin troppo facili, impiegato sempre da centro, ma uno dice con il nostro amico Michele, ma per fare i blocchi, dar due volte, prendere i rimbalzi, Cusin è uno che lo fa di mestiere, Bargnani di mestiere fa un'altra cosa. Una difesa dentro l'area che ha permesso ai francesi spesso di fare quello che volevano. E soprattutto il grande interrogativo, la incapacità dell'Italia di metabolizzare i suoi due talenti più importanti, cioè Bargnani e Berinelli. Anche ieri sera abbiamo visto, fuori loro l'Italia rimontava, entrano in Italia ancora problemi soprattutto difensivi. E questo è un leitmotiv delle ultime stagioni, Attilio. Ma sì, però, caro, onestamente mi sembra un po' ingeneroso dovere addossare eccessive colpe e responsabilità solo a questi due giocatori, quando poi dopo Berinelli nell'ultimo quarto forse ha fatto anche troppo, però ha fatto quello che doveva fare, e Bargnani sicuramente non ha avuto i palloni giocabili che dovrebbe avere. Cioè Bargnani è un giocatore che si può usare anche se gioca da 5, ma usare con dei blocchi in movimento in modo tale che deve prendere la palla in allontanamento e poi possa attaccare il centro avversario usando anche la sua qualità che è il tiro come doppia arma. Bargnani nel primo tempo è stato servito solo da fermo in post basso perché lui faceva i blocchi, la Francia attuava dei cambi difensivi, lui si trovava contro un difensore più piccolo e lì si cercava di dargli i passaggi, alcune palle sono state perse e altre palle invece lui se le giocava da fermo, che non è la sua caratteristica migliore. Quindi direi che in quella situazione è bastato che nel quarto quarto avesse due situazioni di ricevere la palla in movimento che potesse fare qualcosa di più. Per quanto riguarda il discorso della difesa, è una cosa che è mancata, l'aggressività da parte di tutti, perché sotto canestro Bargnani poi può essere col suo fisico un buon intimidatore, però la difesa da parte di tutti è un po' mancata e quindi questo era troppo importante in casa, hai bisogno di fare due contropiedi, hai bisogno di accendere il pubblico, hai bisogno di creare un po' di bagarre positiva, perché l'avversario, ti ripeto, erano dei ragazzini. Se consideriamo, Carlo, che il primo playmaker, Jannot, è stato chiamato solo due giorni prima per l'infortunio di Parker, quindi un giocatore che era assente alla nazionale da forse esordiente a 31 anni. Il suo cambio era Dio, che è un giocatore di 19 anni che ha vinto il campionato con la Francia Under 20, però assolutamente un giocatore non pronto ad alti livelli. Quindi si doveva, con una certa pressione difensiva, con una certa difesa, creare e mettere la Francia in difficoltà su quelli che potevano essere binari non favorevoli. Certo. Attilio, secco, secondo te è finita per l'Italia o ci sono ancora margini? Considerate le condizioni dell'Italia, perché numericamente lo so che ci sono margini, ma guardando questa squadra è possibile l'europeo? È difficile, molto difficile, perché anche, insomma, sembrato che a un certo momento fossero veramente in pochi a crederci e quindi c'era quasi come una cosa così, un risultato annunciato, ecco. È momento che con la continuazione dei risultati dell'anno scorso si è arrivati in una spirale di delusione, di demoralizzazione, e diventa difficile, secondo me, alla luce anche di maggior ragione con il risultato di ieri, come si è iniziata questa nuova annata, a riuscire ad andarsene fuori. Grazie Attilio, buon lavoro, ci sentiamo presto. Grazie a voi, buon pomeriggio. Grazie davvero ad Attilio Caia, con cui abbiamo commentato purtroppo la serataccia dell'Italia del basket. Ieri sera, domani torneremo a dedicare una parte della trasmissione senz'altro al basket. Adesso però ci salutiamo. Grazie Anita Riotti per il lavoro in redazione, grazie Filippo Aureggi in regia. Alle 14 siamo di nuovo qui.